37. Il baule era ancora pieno, la roba in ordine. Joseph abbassò il coperchio, pensò a Peggy, la prima moglie, seppellita con le sue cose in una terra che non era più dei Mohawk. Pensò a Peter, si chiese cosa avrebbe scelto per lui se non l'avessero buttato chissà dove, insieme ad altri mille. Il suo vecchio violino era rimasto a Canajoharie, i libri a Johnson Hall o magari bruciati. La spada di Ethan Allen, forse quella se l'era portata nella tomba. Non sarebbe tornato a Londra per offrirla di nuovo al re. Non pensò a se stesso, al corredo funebre che un giorno gli avrebbero preparato i figli, a quello che avrebbe desiderato. Una copia del Vangelo che aveva tradotto, le pistole regalate da Lord Warwick, il bastone da passeggio col simbolo del clan del lupo. Pensò a Susanna. Aveva riempito il baule per trasferirsi nella nuova casa e non aveva fatto in tempo a svuotarlo. Forse aveva capito che poteva servirle per l'ultimo viaggio. La polmonite aveva colpito prima gli abitanti delle baracche, gli affamati, quelli ancora senza rifugio, che per ripararsi dal vento dormivano dentro crateri scavati nella neve. Poi la malattia aveva scalato le mura del forte e Susanna era morta di febbre, 3 giorni prima che lui rientrasse. L'attacco a Cherry Valley gli aveva impedito di abbracciarla per l'ultima volta. Guardò le travi del soffitto, i muri intonacati d'argilla, il pavimento di legno ancora lucido. Prima dell'estate, Molly aveva convinto il generale Bolton a costruire 2 fattorie. Una l'abitava lei, con Esther Johnson, la servitù e il solito esercito di ospiti e pellegrini. L'altra doveva proteggere Susanna e i bambini dai rigori dell'inverno. Ora nessuno avrebbe piantato alberi da frutto all'arrivo della primavera. Nessuno avrebbe raccolto il lino e preparato la terra ad accogliere le 3 sorelle. Oltre i vetri della finestra, le acque del lago apparivano livide e una coltre di ghiaccio presidiava le sponde. Strade e sentieri erano crepacci sottili nel bianco dei campi. Ancora poche settimane e Fort Niagara sarebbe diventato un vascello immobile in un mare di gelo. A primavera, la nuova casa sarebbe rimasta vuota. Joseph doveva tornare a combattere. Isaac e Cristina non potevano restare. Sarebbero andati da Margaret, sul lago Cayuga. Al ritorno, non ci sarebbe stata Susanna a spingere Cristina tra le braccia di suo padre. Non ci sarebbe stata la sua voce per raccontare le ultime imprese di Isaac e impedirgli di starsene zitto. Joseph si alzò e raccolse il baule. La porta di casa si aprì, senza rumore, e sulla soglia comparve proprio suo figlio, sporco e malfermo. Aveva gli occhi gonfi, la faccia e le scarpe infangate, la giacca di lana ridotta a uno straccio. Restò immobile, appoggiato allo stipite con una spalla. Joseph aggirò il tavolo, lo afferrò per un braccio e lo trascinò dentro. «Cosa diavolo ti è successo?» La faccia del ragazzo si illuminò d'orgoglio. «Ho picchiato un Seneca perché mi ha offeso». «Conciato così ti offendi da solo. Cosa ti ha detto?» «Mi ha chiamato sporco Oneida». Joseph guardò il figlio negli occhi. Lacrime si affacciavano sulle ciglia. Gli strinse una spalla e avrebbe voluto parlargli con calma, ma l'odore dell'alcol richiamò la collera. Lasciò la presa e gli mollò un ceffone. «Stai lontano dal room, mi hai sentito? E adesso pulisciti, non voglio arrivare tardi». Le lacrime cominciarono a scendere. Joseph restò zitto, immobile, mentre il ragazzo singhiozzava. Voleva lasciarlo sfogare. Isaac si asciugò gli occhi e quando li rialzò non c'erano più lacrime ma odio. Scoprì i denti come una bestia impaurita, poi trovò il coraggio per ringhiare ancora. «Susanna è morta da 3 giorni. Se non volevi far tardi, dovevi pensarci prima». Voltò le spalle, fece per andarsene, ma Joseph lo afferrò per un braccio, lo scaraventò a terra e prima che riuscisse a rintanarsi sotto la tavola, lo bloccò con un ginocchio sul petto e prese a colpirlo con rabbia. Isaac si rintanò dietro un muro di gambe e braccia. Joseph si alzò di scatto e lo colpì con un calcio. Qualcuno bussò alla porta e una voce timorosa domandò se servisse aiuto. Joseph riprese il baule, cercò qualcosa da dire ma non gli venne in mente nulla e allora uscì. Fuori un drappello di facce logore aspettava di entrare in scena per l'elemosina quotidiana. Molti si erano preparati parole di cordoglio e recitavano un repertorio di pianti e disperazione. Era dai tempi di Londra che Joseph non riceveva una paga, ma ormai bastava poco per essere tra gli uomini più ricchi della nazione. Una casa solida, il pane quotidiano e il favore degli inglesi. Attraversò la corte, mentre con gesti sbrigativi respingeva gli assalti. Un vecchio gli ricordò con stizza che un grande uomo sa donare tutto, fino all'ultima briciola. Joseph replicò che forse era per quello che di grandi uomini se ne trovavano sempre meno. Pensò che non gli importava più essere un grande uomo, un indiano ricco o un guerriero invincibile. Importava solo fare la scelta giusta per Isaac e per Cristina, perché un giorno, sulla sua tomba, non dovessero portare un baule di rancore. Un tempo tu eri una donna nel fiore degli anni. Ora quei petali sono secchi e il loro profumo è nel vento che soffia. Ora dobbiamo lasciarti andare perché non c'è più concesso di camminare insieme sulla stessa terra. Per questo lasciamo qui il tuo corpo, perché tu possa avanzare tranquilla verso il padrone della vita. Non permettere alle cose terrene di distrarti. Occuparti della famiglia era tuo compito sacro e gli sei stata fedele. Le feste e le danze ti hanno dato piacere, ma adesso non permettere a queste cose di confondere la mente e prosegui dritta sul tuo sentiero. Il mantello nero avvolgeva Attekarioga come un'enorme conchiglia. Il vecchio Sachem era un mollusco bianco e grigio che spuntava dalle valve dischiuse. Al suo fianco Filippo indossava abiti di pelle e una stringa di velluto nero stretta al braccio destro. La folla riempiva tre file di un largo cerchio. C'era l'intera Kanayoharie, i parenti Oneida di Susanna, Harry Hogue e molte famiglie di Okwaga, i Butler e alcuni inglesi. I negri che avevano scavato la fossa osservavano la scena appena discosti. L'oratore riprese a parlare. «Anche voi, parenti e amici di questa donna, dovete perseverare nel vostro cammino. Per questo, con un filo di conchiglie, vogliamo sgombrare il cielo dalle nuvole nere, perché il sole possa ancora guidarvi. Con un altro filo, puliremo la terra, perché possiate seguire la via senza incertezze. Con il terzo, puliamo il cuore e le viscere dentro di voi, perché il dolore non vi renda distratti». Filippo porse le collane di Wampum all'uomo più nobile della nazione. Joseph capì che non erano solo gesti formali. Senza bisogno di parlare, Ronaterionte stava dicendo qualcosa. Il dolore li riavvicinava. Tekarioga agitò nella polvere una collana, roteò la seconda sopra la testa, con la terza toccò il ventre di Joseph, poi le raccolse tra le mani e gliele mise al collo. Joseph alzò la testa e guardò ancora verso Philippe. Anche lui aveva indossato tre collane. Gli pendevano sul petto, appena sotto la croce.